Oggi il Vangelo di Matteo ci presenta un brano in cui San Pietro si avvicina a Gesù e gli domanda quante volte al giorno deve perdonare, fino a 7 volte, e Gesù gli risponde con una parabola. Ecco, Pietro vorrebbe un limite al perdono, cioè sì, perdonare va bene, però fino a un certo punto. Gesù, raccontando questa parabola, invece ci fa capire che non c'è limite al perdono, che il perdono va dato sempre e incondizionatamente. Qual è la parabola che racconta Gesù? Racconta la storia di un re che praticamente chiamare i suoi servi a rendere conto dei loro debiti e trovando un tale che gli doveva 10.000 talenti, che è il corrispettivo di 200 anni lavorativi. Trovando questo tale, ovviamente questo tale non si sente all'altezza di poter pagare il debito e implora grazia da parte del Signore e Gesù gli condona il debito. Pensate, doveva dare indietro una quantità enorme di denaro, perché 200 anni lavorativi è una cifra enorme, e questo tale graziato incontra un suo compagno che gli deve invece il corrispettivo di 30 giorni lavorativi. Voi capite, 200 anni lavorativi contro 30 giorni lavorativi non c'è paragone. Eppure questo servo graziato non riesce a condonare il debito del proprio compagno, che gli deve invece così poco rispetto a tutto quel debito cancellatogli dal re. E che cosa ci dice questa parabola? Questa parabola ci dice una cosa importantissima, che se noi non perdoniamo, chi ci perde siamo noi stessi, perché perdonare significa rinunciare a dare adito, a dare corda, ad appoggiare il senso di vendetta che proviamo quando qualcuno ci procura del male. Allora, che cosa succede? Se noi perdoniamo, significa non che dimentichiamo, non che minimizziamo, non che giustifichiamo, ma allora perdonare che significa? Significa che noi riconosciamo di aver subito un torto, riconosciamo che questo torto ci provoca il senso di vendetta, ma vogliamo rinunciare a vendicarci. E vogliamo continuare ad amare chi ci ha fatto del male come se non ci avesse fatto del male. Vedete come siamo noi padroni della situazione e delle nostre azioni. Invece, nel caso in cui io non perdono, io divento schiavo del mio sentimento di rabbia, di vendetta, di frustrazione. Allora, ricordiamoci che non perdonare vuol dire condannare noi all'infelicità, non l'altra persona, perché spesso l'altra persona non si rende nemmeno conto del male che ha fatto, non se ne rende conto, e anche se uno glielo dice, eccetera, non se ne rende conto. Ci sono delle persone che perdonerebbero pure volentieri, solo a patto che la persona da cui hanno subito del male chieda loro perdono. Vedete, però è stupido, è sciocco fare così. Perché? Perché se noi diamo il perdono cosiddetto condizionato, perché è condizionato dal fatto che l'altro ci chieda perdono, ecco che noi condanniamo noi stessi a vivere i sentimenti negativi di rabbia, di tensione, che non ci permettono di essere felici. Invece, se io do il perdono incondizionato, cioè sia che l'altro mi chiede perdono, sia che l'altro non me lo chiede, io lo perdono, cioè io continuo ad amarlo, a volergli bene come se non mi avesse fatto niente del male. Allora sono io libero dalle passioni, libero da questo senso di vendetta e libero perché sono io che decido di volere il bene di questa persona e non che lascio decidere al comportamento dell'altro come voglio essere io. Allora, oggi concentriamoci proprio su questo, ma io il mio perdono lo offro in maniera condizionata o in maniera incondizionata? E se lo offro in maniera condizionata, bisogna che mi renda conto di cambiare e chieda l'aiuto al Signore perché possa fare oggi o al più presto questo passo di offrire il perdono incondizionato. L'unico che mi può dare la vera gioia, la vera pace, la vera felicità. Buona giornata.